Focus Economia. Le 17 e 9 minuti, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. I temi che affronteremo oggi, oltre naturalmente come sempre ai mercati che dopo aver aperto in negativo, essere arrivati a metà giornata più o meno in parità, aver virato lievemente in positivo, si avviano ad una chiusura in ribasso. Il FTSE MIB lascia sul terreno lo 0,53%, il FTSE All Share lo 0,52%, in un mercato che vede premiata ST Microelectronics per i conti, che guadagna il 4,5% in questo momento, e ancora una volta giù il Banco Popolare del 2,63%. Pesa sicuramente il report di Moody's, ne parleremo più avanti, sulle banche in generale, anche se in realtà il resto del settore bancario si è comportato piuttosto bene, se si fa eccezione per Intesa San Paolo che scende dello 0,19%, e per la Popolare di Milano che lascia sul terreno l'1,03%. Molto peggio fa l'America in questo momento, con il Dow Jones che perde l'1,23%, il Nasdaq mezzo punto percentuale, l'euro quota 1,37,72 contro dollaro, quindi dollaro in lieve rafforzamento. Di cosa parleremo? Parleremo del mercato dell'auto, perché ci sono, per una volta non toccheremo, almeno sfioreremo solamente il tema Fiat, perché ci sono un po' di notizie interessanti che sono arrivate oggi, a partire dal fatto che in Francia i consumi si sono rivelati in crescita proprio grazie, con una forte componente dovuta proprio alla vendita di auto, al fatto che Volkswagen ha presentato la trimestrale e rispetto ad un anno fa l'aumento dei profitti è di 13 volte, quindi veramente un livello enorme. Ci sono i dati di Ford dei quali abbiamo parlato ieri, quindi torneremo a toccare l'argomento. Parleremo di risparmio, perché domani sarà la giornata mondiale del risparmio, è stata presentata la consueta indagine firmata da Nando Pagnoncelli. Ci sono dei dati interessanti sul risparmio degli italiani, c'è un quarto degli italiani, un 25% degli italiani, come già in parte vi abbiamo raccontato all'interno dei nostri giornali radio, che in sostanza non riesce a mettere da parte niente oppure è indebitato. E poi naturalmente la Torino-Lione, perché oggi, come già era stato anticipato nei giorni scorsi al Sole 24 Ore, l'Unione Europea ha deciso di toglierci i primi 10 milioni per ritardo nei lavori. Nel frattempo, in tema di infrastrutture, notizia di un attimo fa, il governo è stato battuto in commissione bilancio della Camera sulla delibera del CIPE che riguarda la riassegnazione dei fondi FAS, che è il fondo per le aree sottoutilizzate, proprio alle infrastrutture. 349-238-6666 per i vostri SMS, le notizie in breve di questa giornata. Iniziamo come sempre dal petrolio. L'apertura è stata in calo a New York dell'1%, 81,71 dollari al barile. Sono stati poi diffusi i dati sulle scorte settimanali di petrolio dal Department of Energy americano, un più 5 milioni contro il più 600 mila atteso dagli analisti. Poi c'è la questione valutaria, vi abbiamo dato il cambio dell'euro contro dollaro 1,37,62 per l'appassionato che ormai ci scrive quotidianamente, adesso anche con un piccolo smile via SMS, del cambio col franco svizzero 1,36,34 per essere esatti, ma la questione è lo yuan, che ancora oggi è stato in vistoso calo sul dollaro a dispetto degli impegni che erano stati presi dal G20. Che cosa succede? Che secondo uno studio di Global Sources gli esportatori cinesi sono più scontenti del recente graduale apprezzamento dello yuan, e ci mancherebbe altro naturalmente, rispetto al dollaro che avrebbe danneggiato le loro vendite. Quasi il 70% dei 239 esportatori intervistati teme un impatto significativo degli ordini se lo yuan dovesse apprezzarsi di un 2%. Tra l'altro la Banca Popolare Cinese interviene dicendo che le forti pressioni a rialzo sui prezzi sono difficili da ignorare. Probabilmente un qualche impatto sul mercato valutario e soprattutto sull'apprezzamento del dollaro ce l'ha avuto la notizia diffusa oggi dal Wall Street Journal, che è naturalmente un'indiscrezione, però dice che il nuovo programma di stimolo monetario all'economia che la Fed si prepara ad annunciare probabilmente la prossima settimana sarà del valore di poche centinaia di miliardi di dollari, che insomma sono comunque tanti, però viene definito un approccio misurato rispetto a quel che ci si attendeva, un massiccio programma di acquisto di titoli attraverso la creazione di moneta fresca per una cifra di 2.000 miliardi, quindi circa un quarto rispetto alle attese. Sempre dall'America ci sono due dati interessanti: gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti, che in settembre sono saliti del 3,3% contro il meno 1 di agosto, dato migliore delle attese degli analisti. Al netto della componente trasporti però gli ordini sono scesi dello 0,8%, e poi gli ordini di case nuove più 6,6%, lievemente meglio rispetto alle attese degli analisti. Nonostante tutto questo, come vi abbiamo detto, le borse americane vanno piuttosto male. Siamo all'Europa e il primo dato che vi diamo è quello più interessante. Forse avremo parlato fino alla noia della Germania, e però il dato sulla disoccupazione vede i disoccupati tedeschi scesi sotto quota 3 milioni ad ottobre, a quota 2,94 milioni di unità. Qual è il punto? Il punto è che il livello più basso mai registrato dal 91, quindi praticamente dalla riunificazione delle due Germanie, ed è sicuramente un segnale interessante se si considera quel che abbiamo attraversato fino adesso e tutti gli allarmi che sono stati lanciati appunto su questa ripresa senza occupazione. Quindi evidentemente quella tedesca è con occupazione. Il resto d'Europa, l'Irlanda, il Parlamento irlandese inizia oggi la discussione dei maxi tagli fiscali da 15 miliardi di euro in 4 anni annunciati ieri dal governo, mentre il primo ministro Brian Cowen chiede una grossa correzione delle finanze pubbliche. Cowen, dopo aver raddoppiato i tagli inizialmente previsti per riportare il deficit al 3% del PIL entro il 2014, avverte che l'Irlanda non può permettersi di allungare la tempistica di riduzione del deficit. E poi, altro paese a rischio, il Portogallo. È saltato l'accordo sulla stretta di bilancio anticrisi del governo portoghese. I socialdemocratici hanno interrotto le trattative sulla legge finanziaria 2011. Tra l'altro, lo spread tra i titoli di Stato portoghesi e quelli di riferimento, ossia la differenza di rendimento tra i titoli di Stato portoghesi e quelli di riferimento, che sono i Bund tedeschi, si è allargato sulla scadenza decennale di 4 centesimi a 325 punti base. Sempre per quanto riguarda la politica economica, ma venendo questa volta a quella del nostro paese, tra l'altro alle 18 ci inizierà la nuova riunione tra tutti gli attori economici del paese, secondo lo schema proposto dalla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e poi accettato naturalmente dai sindacati. Alle 18 dovrebbe iniziare questo nuovo incontro. Nel frattempo si parla di sviluppo, come già anticipato ieri dall'agenzia di stampa Radio Cori Il Sole 24 Ore, a quanto pare il governo starebbe preparando, o meglio, il governo sta preparando il decreto sviluppo. Ieri l'agenzia di stampa Radio Cori Il Sole 24 Ore ha identificato le manovre in 7 miliardi di euro per sostegno all'economia. Si parlava di possibilità di vendita di frequenze TLC, pubblicazione di nuovi bandi per giochi e lotterie, tra l'altro confermate questa mattina da fonte governativa, e poi rimodulazioni di spesa. La lista dei richiedenti è lunga, a partire dal Ministero della Pubblica Istruzione, che avrebbe bisogno di 1.700.000.000 di euro per regolarizzare 9.000 ricercatori. In realtà tutti questi soldi sono soldi che dovrebbero appunto andare allo sviluppo. Nel frattempo il ministro competente, che appunto è quello dello sviluppo economico che finalmente abbiamo, ed è Paolo Romani, dice si deve tener conto della realtà: attualmente non ci sono frequenze a disposizione da vendere. Dice la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, invece dobbiamo ancora avere informazioni precise e chiare, ma se le misure di cui si parla saranno confermate, ovviamente per noi sarà un fatto positivo. Mentre invece dal fronte CGIL la dichiarazione della prossima segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, che dice: nonostante l'abilità di Tremonti a smentire se stesso, il governo sta discutendo per fare una nuova manovra economica. Per quanto riguarda sempre il tema dello sviluppo, il ministro del welfare Maurizio Sacconi dice ok alla detassazione del salario di produttività, che dice sarà certamente confermata. Poi il ministro del welfare interviene sul tema delle pensioni a margine di un'audizione in Parlamento. Ascoltiamolo. Se questo risultato è stato fin qui conseguito con politiche di bilancio rigorose quanto i risultati annuali, è indubbio che il giudizio positivo dei mercati riguardi anche e soprattutto la sostenibilità di lungo periodo del debito, che è stata profondamente beneficiata dagli interventi condotti in campo previdenziale. E da conseguire questa ritrovata credibilità ha senz'altro contribuito il fatto che la riforma delle pensioni sia stata portata a termine in un clima di coesione sociale del tutto inedita per il nostro Paese, e a guardare le cronache recenti non solo per il nostro. È di ieri il giudizio del commissario europeo circa la virtù non solo delle riforme ma anche del comportamento delle società in Italia e in Svezia. Egli ha affermato tale da incoraggiare anche gli altri paesi a poter realizzare cambiamenti nei sistemi previdenziali senza tensioni sociali, come nel nostro paese in vero fortunatamente non si sono prodotte. Allora, veniamo al primo tema di questa giornata, che è il mercato dell'auto. Vediamo che già arriva qualche domanda via SMS. Calma, adesso risponderemo. Dice, chiedete, il mercato dell'auto va bene in Europa mentre Fiat va male, come mai? Cercheremo di capirlo. Per quanto riguarda l'utile trimestrale di Fiat, non abbiamo parlato dell'utile trimestrale di Fiat, ma di quello di Volkswagen, che è, devo dire, particolarmente impressionante. Insomma, come si diceva in apertura, Volkswagen sta per nel 2018, questi calcoli del management, dovrebbe diventare il più grande costruttore di auto a livello mondiale. Il messaggio lanciato dall'amministratore delegato della Volkswagen, Martin Winterkorn, nel corso della presentazione dell'andamento dei primi 9 mesi 2010. L'altra notizia è che in Francia l'andamento positivo dei consumi è un dato di oggi, un più 1,6%, è stato trainato in particolare dal settore dell'auto. E poi abbiamo i dati che sono stati diffusi ieri da Ford, che sono dati ottimi. Allora, di tutto questo noi parliamo con Nino Lobianco, che è presidente della società di consulenza BIP, Business International Partners. Buonasera, Lobianco. Buonasera. Allora, io inizierei proprio da qua, proprio dalla domanda che ci è arrivata. Prima di andare alla domanda su Fiat, io andrei un attimo invece al mercato globale. Insomma, sembra che complessivamente il mercato dell'auto stia tirando. Insomma, non è solo Ford quella che abbiamo visto nelle settimane scorse, i dati che abbiamo visto nelle settimane scorse. Ci sono oggi quelli di Volkswagen. La stessa Fiat, tutto sommato, ha presentato una trimestrale decisamente positiva, nonostante abbia ceduto qualcosa negli ultimi mesi per quanto riguarda le quote di mercato. Che cosa sta succedendo? Chi è che tira veramente? Se sono i soliti e consueti BRIC, quindi il Brasile che va benissimo, la Russia che va benissimo, l'India e la Cina altrettanto, o se c'è qualche strapuntino anche in Europa e negli Stati Uniti? Qualche strapuntino, come dice lei, c'è certamente anche in Europa, Però certamente la crescita dei paesi BRIC, ma soprattutto la travolgente crisi, la crescita in Cina sta facendo beneficiare moltissimo anche alcuni produttori europei, in particolare quelli tedeschi. Quindi direi che le spiegazioni sono tante, bisogna vedere i singoli operatori. Gli operatori tedeschi, tanto Volkswagen con Audi, tanto BMW, tanto Mercedes, stanno beneficiando del fatto che la classe affluente cinese pensa di acquisire prestigio avendo un'auto tedesca di queste riconosciute a livello internazionale, e questo ha favorito l'esportazione dei tedeschi e ha favorito il risultato di Volkswagen in una maniera incredibile. Dall'altra parte il mercato USA sta tirando molto, c'è una ripresa evidente, e c'è un Buy American che è una ripresa dell'orgoglio nazionale, e il fatto che il cambio dollaro-euro e dollaro-yen avvantaggia i produttori nazionali rispetto a quelli che importavano, e quindi anche se sono produttori tedeschi o francesi o comunque giapponesi, i giapponesi sono particolarmente penalizzati, ma gli altri subiscono poi il fatto che, pur essendo di produzione americana, hanno moltissimi componenti che arrivano da fuori, per cui c'è una penalizzazione. L'Italia sta registrando il fatto che stanno ricominciando gli acquisti, gli ordinativi, per il fatto che ormai la gente si è convinta che non ci saranno più gli incentivi, e anche una certa ripresa di sensibilità ecologica porta al fatto di ordinare i modelli sostitutivi di quelli precedenti. Però il mercato da noi stenta a riprendersi, perché la domanda è molto più contenuta. Sì, la domanda è molto più contenuta. Come diceva lei, se il discorso su Brasile, su Cina, su Russia l'abbiamo capito abbastanza nitidamente, c'è il punto che riguarda, e quel che ci chiede anche un ascoltatore via SMS, che riguarda l'Europa e gli Stati Uniti: ma se le macchine vengono comprate con incentivi e finanziamenti, insomma, alla fine le note positive dove sono? Cioè, non è una vera ripresa di mercato, nei fatti, una ripresa ancora una volta drogata, forse. Sì, però in questo momento gli incentivi stanno finendo, cioè non ci sono paesi che hanno incentivi in maniera rilevante, e quindi l'Europa sta beneficiando del fatto che non ci sono esportazioni pressanti dei giapponesi o dei coreani, che stanno anche loro sfruttando molto il boom del Far East, quindi la pressione concorrenziale non è così pesante come sarebbe stato se non ci fosse questo tipo di sviluppo del mercato. Quindi l'Europa si sta avviando a tornare ad un mercato fisiologico, che è un mercato però di rinnovo, cioè non abbiamo un'espansione della domanda se non nei paesi dell'est, e quindi per esempio va molto bene la Fiat in Polonia, andrà molto bene in Serbia, dove le quote sono ancora del 55-60% di quota di mercato, e la domanda è fortemente ancora insoddisfatta, mentre da noi sono mercati di rinnovo, quindi da noi saranno sempre percentuali molto basse, 1-2% di crescita o di decrescita, insomma, nella produzione. Sì, chiarissimo, chiarissimo. E questo mi sembra che continui a porre il problema che si è posto anche nelle scorse settimane, e che ha posto nuovamente in maniera un po' ruvida l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, ossia se convenga davvero produrre in Italia. Oggi sono un po' di dichiarazioni su questo fronte. Parla il neo ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, e dice: è stato duro Marchionne, ricordo bene la storia del gruppo. Precisa il presidente di Fiat John Elkann che non è vero che Marchionne ha detto che la Fiat vuole lasciare l'Italia. E poi ci sono le parole del consigliere delegato Intesa San Paolo Corrado Passera, dice: tutti insieme vogliamo rendere il nostro paese più produttivo e competitivo, dobbiamo lavorare su tutte le leve. Ce lo ascoltiamo insieme, poi le chiederò ancora un commento sulla questione che ormai è diventata la questione Marchionne per il mondo politico, ma in realtà è la questione Fiat, la questione Fabbrica Italia. Sentiamo Passera. Ma io credo che Sergio Marchionne abbia sollevato un tema importantissimo, cioè del come l'Italia può essere competitiva in taluni settori manifatturieri. Loro naturalmente sono in modo particolarmente sotto pressione nel settore che rappresentano. La produttività, la competitività di un paese dipende da tante cose, tra cui anche le regole sul lavoro, ma dipende da fattori importantissimi quali possono essere infrastrutture, sistema dell'educazione, sistema della giustizia, funzionamento della pubblica amministrazione. Quindi tutti insieme, se vogliamo rendere il nostro paese più produttivo e quindi più competitivo, dobbiamo lavorare su tutte le leve. Col sindacato ognuno ha alle sue tematiche, noi stiamo lavorando al prossimo contratto nazionale che rimarrà centrale, ma che credo questa volta dovrà lasciare più spazio alla negoziazione azienda per azienda, data la fortissima differenza delle situazioni. Ed eccoci di nuovo in diretta dalla fiera di Milano, dalla vecchia fiera di Milano, dove si sta svolgendo in questi giorni il World Business Forum, ospiti dello stand di DNV, fondazione indipendente, una presenza globale leader nelle certificazioni impegnate nella sostenibilità e gestione del rischio. Per parlare però adesso appunto di quella che è considerata la sfida lanciata da Fiat, Lo Bianco, a questo punto, visto che i mercati veri sono fuori, al di là dei mercati che lei ha giustamente definito di sostituzione, insomma, questa sfida di Fiat le sembra veramente sostenibile? Io credo di sì, e sono assolutamente convinto che Marchionne dica delle cose giuste, sacrosante, che non sia l'uomo nero che qualcuno sta dipingendo in questi giorni in maniera veramente dilettantesca e poco approfondita, con degli slogan demagogici, perché sta cercando di mettere in evidenza quali sono i problemi e come superarli, ma la cosa importante è che il suo piano è un piano che investe pesantemente in Italia, è un piano che prevede nel giro di alcuni anni di portare altri 800-900 mila vetture, esemplari fabbricati in Italia, tutti da esportare, perché ricordiamo semplicemente che loro fanno 850.000 vetture circa, 450.000 vengono acquistate in Italia, 400.000 già oggi sono esportate. Tutta la nuova produzione che viene prevista sarà da esportare. Questo è un atto, secondo me, di grande fiducia, direi quasi, se non è così azzardata la parola, un atto d'amore verso il paese. Nessuno pensa a questo e tutti si stanno lamentando poi del fatto, della preoccupazione che venga abbandonato il paese o che vadano via, o questi 10 minuti delle pause di Pomigliano. Cioè, sì, rispetto alla enorme mole di investimenti che devono essere fatti, cambiamenti, difficoltà di passare dalle produzioni degli stabilimenti che oggi hanno 40-50% di capacità produttiva a capacità per competere, quindi credo che sia una sferzata e uno stimolo importante, ma non credo che ci siano delle preoccupazioni in questo senso, con okay, i nuovi modelli e con le capacità produttive. Lo Bianco, la interrompo perché abbiamo una pausa per il meteo. Io però poi le vorrei fare un'ultima domanda dopo, le chiederò anche di essere abbastanza sintetico, ed è una risposta ad un ascoltatore che ci chiede giustamente: allora facciamo un punto, ma perché produrre in Italia non conviene e produrre in Germania conviene? A tra poco. Eccoci tornati in diretta a Focus Economia per chiudere il cerchio sulle questioni produzioni di auto e Fiat, e per rispondere a una domanda di un ascoltatore che, a dir la verità, è anche la nostra. Allora, Lo Bianco, riusciamo a riassumere brevemente perché conviene produrre un'auto in Germania e non conviene in Italia, almeno al momento, insomma, al netto di eventuali accordi stile Pomigliano? Al momento in Germania producono dei modelli che sono molto diversi e molto più costosi dei nostri. Cioè, il fatto di produrre delle Mercedes, delle BMW o delle Audi, anche se ci sono poi in mezzo delle Volkswagen, ha dei ricavi per cui ogni auto che viene prodotta là di questo genere ha un ricavo di 7-8 volte quello di una 500 o quello di una macchina piccola della Fiat, che poi sono i modelli italiani. E a questo punto l'incidenza della manodopera e l'incidenza dei costi è molto più bassa per ogni unità venduta di quanto lo sia da noi, mentre da noi incide in maniera maggiore. E quindi puoi anche pagare di più gli operai. Puoi anche pagare di più, loro hanno una produttività superiore dovuta al sistema, non tanto alle fabbriche, perché le nostre fabbriche sono fra le migliori al mondo. Il problema vero è che hanno delle infrastrutture, trasporti, servizi, logistica, utilities, energia che costa meno, hanno tutta una serie di vantaggi da sistema di essere tedeschi rispetto ai nostri di essere italiani, dove c'è una quantità di servizi, di ritardi, di impedimenti, di cause esterne che aggravano i costi di produzione. Lei pensi, Termini non è un brutto stabilimento, o la gente che produce Termini non è lavativa o Bambocci, però il 100% delle componenti devono essere portate a Termine, il montaggio costa quello che costa, dopodiché si porta via, bisogna riesportarle. I costi di logistica, avere fatto lì lo stabilimento è sbagliato, essere al centro dell'Europa e da trasportare sì, a meno che naturalmente Robianco non si produca una quantità di auto tale per cui ti puoi consentirti di avere lo stabilimento un pochino dove vuoi, in sostanza. Sì, l'importante è avere l'indotto, cioè avere che tutti i pezzi vengano in qualche modo a costarti poco e non abbiano dei costi di trasporto di ognuno di questi e dei costi di imballaggio e dei costi, cioè che ci sia un just in time come è fatto per esempio in buona misura a Melfi. Ecco, lì la cosa è difendibile e non costa di più che in Germania. Chiarissimo. Io la devo interrompere, Robianco, anche se continuerei a lungo perché il tempo a disposizione è scaduto e adesso parleremo di mercati. Grazie dunque a Nino Lobianco, presidente della società di consulenza BIP Business International Partners, per essere stato con noi e buonasera. Grazie, arrivederci. Questo è il quadro dunque per quanto riguarda Fiat e non solo naturalmente Volkswagen, perché quella naturalmente la notizia di oggi e i dati anche arrivati dalla Francia. È il momento della borsa. Guido Maurino, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, giornata che si era aperta in negativo, poi è andata migliorando e poi ha chiuso di nuovo in negativo. FTSE MIB in calo dello 0,53%, FTSE All Share altrettanto, come mai? Beh, diciamo che la giornata è virata verso il rosso, soprattutto nel pomeriggio, dopo l'apertura negativa di Wall Street. Gli operatori temono, in seguito anche ad alcuni dati paradossalmente buoni arrivati dall'economia americana, che la Federal Reserve non procederà nella misura prevista, ma in una misura molto inferiore, all'acquisto di titoli di Stato. Per cui, venendo meno un po' questa misura, le borse si sono un pochettino depresse. Pochi minuti fa Wall Street cedeva oltre l'1% e anche le borse europee che avevano navigato per tutta la giornata attorno alla parità hanno virato più decisamente in negativo. Il FTSE MIB e il FTSE All Share, come ricordavi tu, hanno ceduto entrambi lo 0,53% e anche il resto dei listini europei, diciamo che si è mosso abbastanza in linea con questi valori. Allora, due questioni dominanti mi sembra nella giornata di oggi, e una riguarda un singolo titolo che è ST Microelectronics, che ha guadagnato il 4,16%. Qua sono i conti che sono buoni, no? Eh, MSCT oggi in forte rialzo dopo pubblicazione dei conti trimestrali e risultati migliori delle attese. Il terzo trimestre si è chiuso con un utile netto di 198 milioni di dollari contro un rosso di 201 milioni dello scorso anno. Escluse le poste straordinarie, l'utile sostanzialmente è stato pari a 23 centesimi di dollaro per azione contro un'attesa del mercato per 20 centesimi. La società poi ha anche sottolineato di attendersi una solida ultima parte dell'anno con una crescita sia del fatturato che del margine operativo lordo. Allora, tra un attimo, Guido, verremo all'altro tema di borsa di oggi, che è sicuramente il rapporto di Moody's sulle banche italiane, che in realtà, come già dicevamo in apertura, ha avuto un impatto particolarmente negativo alla fine solamente sul Banco Popolare, su qualcun altro, insomma il Monte dei Paschi, la Popolare di Milano, più o meno le solite. Prima però sentiamo le informazioni per chi è in viaggio. Bene, torniamo a parlare della giornata di borsa, sempre con Guido Maurino, brevissimamente sulle banche, Guido, che poi sì. Un'altra domanda per te. Allora, dicevamo oggi banche in chiaroscuro dopo il report negativo di Moody's sugli istituti di credito italiano. Cosa ha detto questo report? In buona sostanza ha detto che le prospettive del sistema bancario italiano restano negative a causa delle modeste proiezioni a breve termine di redditività e del protrarsi sostanzialmente di un quadro sfavorevole. Inoltre Moody's ha posto l'accento sulla scarsa redditività e delle banche italiane e ha detto che le previsioni sono influenzate dai bassi livelli di capitale e di riserve, che potrebbero allora, non essere sufficienti. Allora Guido, se permetti la morale, prego. Poi la tiro io. Banco Popolare meno 2,76%, Monte dei Paschi 1,5% di calo, Popolare di Milano 1,17%, in realtà tutti gli altri non è che abbiano fatto malissimo, perché Intesa San Paolo lascia sul terreno lo 0,19%, Unicredit guadagna lo 0,11%, certo non una giornata esaltante, ma tant'è. L'ultima domanda che ho per te invece riguarda Prema, fin dopo la corsa di ieri, lo sappiamo, il finanziere bretone Vincent Bolloré è salito al 5%, si è detto, è stato scritto che forse non era un'operazione propriamente amichevole, come apparentemente poteva sembrare. Oggi Ligresti proprio a Radio Core è intervenuto, proprio con voi. Sì, ha detto che sostanzialmente per noi sono tutti amici, queste sono state le sue testuali parole, come a significare sostanzialmente che tutti gli investitori sono benvenuti in qualche modo. Inoltre Ligresti ha anche parlato del riscadenzamento del debito da 322 milioni di Premafin, ha detto che questo riscadenzamento è vicino a concludersi. Oggi comunque, dopo anche la corsa che aveva fatto ieri, il titolo ha ceduto l'1,63%. Ottimo, grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore e a Guido Maurino. Io vi faccio un breve riepilogo, veramente breve perché oggi abbiamo poco tempo. In calo del 3% Bulgari, Eni dell'1,94%, Italcementi dell'1,8%, Fiat dell'1,7%, dell'1,6%, CIR, Geox e Ansaldo e dell'1,5% appunto il Monte dei Paschi, come si diceva, dell'1,4% Snam, Tenaris e Lottomatica, dell'1,3% Buzzi, dell'1,1% la Popolare di Milano, Unipol e Campari, giù dello 0,92%, Parmalat dello 0,79%, Mediaset, Prismian dello 0,78%, Generali dello 0,7%, dello 0,6% Fondiaria, Pirelli e Autogrill, Azimut di mezzo punto, Enel dello 0,3%, Intesa dello 0,19%, si è detto A2A dello 0,1%, così come Impregilo, Mediaset in calo frazionale, in rialzo frazionale Telecom Italia, Unicredit, Mediobanca, Terna e Saipem, Benelux Ottica di mezzo punto percentuale, Ubi dello 0,6%, così come Exor, Atlantia dell'1,07%, Finmeccanica dell'1,27%. In merito al rapporto di Moody's sulle banche, ascoltiamo due opinioni raccolte oggi, a partire da quella di Corrado Passera, consigliere delegato Intesa San Paolo, al microfono del collega dell'agenzia di stampa Radio Core Il Sole 24 Ore, Nicola Filippone. Ma io non credo che sia un sistema bancario in difficoltà, credo che le banche italiane siano oggettivamente passate attraverso la crisi molto meglio di altre. Nel caso nostro credo che lo dimostrino un po' i dati e anche il nostro comportamento in termini di forza patrimoniale e contemporaneamente di grande forza sia di liquidità con basso indebitamento. Alcune banche italiane, molte, sicuramente noi tra queste, abbiamo deciso di essere banche dell'economia reale molto solide, ripeto, non solo in termini patrimoniali ma anche di liquidità e di indebitamento. Poi su questo tema anche il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Giuseppe Mussari, al microfono di Vincenzo Miglietta. Moody's ha espresso la sua opinione, noi senza arroganza e senza iattanza diciamo che i dati e i fatti dimostrano che le banche italiane sono entrate nella crisi meglio delle altre, sono uscite dalla crisi meglio delle altre, non abbiamo pubblicizzato le perdite delle banche, siamo orgogliosi del nostro modo di fare banca, che è la banca per l'economia reale, la qualità e la dimensione dei nostri attivi li riteniamo migliori dei nostri concorrenti europei e internazionali. Chiusura di questa prima parte di Focus Economia, cambiamo argomento e parliamo di agricoltura. Perché si è tenuto oggi a Firenze il convegno Il valore della filiera agroindustriale. Abbiamo sentito poco fa il consigliere delegato Intesa San Paolo Corrado Pasra, che è proprio là che è intervenuto. E dunque sentiamo adesso questa intervista a Federico Vecchioni, che è presidente di Confagricoltura e presidente di AgriVenture, l'unità di business di Intesa San Paolo dedicata agli investimenti agricoli, intervistato proprio da Nicola Filippone, che ha sottolineato come il settore agroindustriale sia uno dei punti di forza della nostra economia. La filiera agroindustriale italiana è senza dubbio oggi nelle condizioni di poter essere misurata sotto il profilo del contributo che dà al prodotto interno lordo italiano, che vale intorno al 15,7%. Una filiera che oggi ha portato il Made in Italy nel mondo, che rappresenta in termini occupazionali un volume assolutamente significativo di giornate lavoro annue, che si attestano su decine e centinaia di milioni, solo per l'agricoltura si parla di 101 milioni, e quindi deve essere considerata dalla produzione alla trasformazione alla distribuzione nella sua assoluta interezza. Anche le politiche sulla filiera devono tener conto di una serie di strumenti che a nostro avviso devono essere in grado da una parte di creare le condizioni per generare nuovo valore sulla filiera, perché in questi anni la conflittualità sulla filiera è stata spesse volte generata da una disponibilità di valore sempre più irrisoria, che ha determinato il fatto che agricoltori, industriali e grande distribuzione si sono trovati su fronti opposti, anche con delle conseguenze molto gravi in termini di esasperazione dei rapporti e anche di reazioni particolarmente violente. Noi dobbiamo quindi distinguere la fase contrattuale del prezzo in cui le diverse componenti si confrontano da una fase di strategia, di politica e di lobby, che richiede invece un'azione molto più congiunta, partendo dalla considerazione che non ci può essere una filiera alimentare se uno dei tre attori, a cui aggiungo anche la ristorazione italiana, non è nelle condizioni di avere un reddito dignitoso che gli consente di continuare a produrre. Probabilmente occorre un ulteriore approfondimento del mondo bancario su quanto la filiera si sia modificata in questi anni in termini di orientamento. La filiera alimentare ha modificato, in funzione di un mercato che è sempre più globale, con dei consumatori nuovi, anche le sue metodologie produttive, l'introduzione di nuove tecnologie, le modalità con cui il prodotto è immesso sul mercato e anche le modalità con cui questa filiera si è in questi anni riorganizzata sul fronte dei rapporti tra produzione, trasformazione e vendita. Quindi tutte le iniziative che vengono tese a dare una mappatura dei fabbisogni degli agricoltori, ma soprattutto di quelle che sono le necessità in termini di strumenti per competere, cioè un modo di fare credito che tenga più conto del progetto che non del prodotto bancario fino a se stesso, rappresenta forse la spinta più innovativa. Questi dunque era Federico Vecchioni, presidente di Confagricoltura e presidente di AgriVenture, unità di business di Intesa San Paolo dedicata appunto agli investimenti agricoli. A proposito di Moody's, insomma, ne abbiamo accennato, vedo che arriva qualche interessante messaggio da parte vostra, molto ironico, molto molto ironico nei confronti dell'agenzia di rating. È il momento della nostra pausa, noi ci ritroviamo subito dopo, toccheremo un paio di temi molto italiani, il primo è il risparmio e il secondo la vicenda della Torino-Lione. A tra poco. Le 18:10, di nuovo buonasera, gentili ascoltatori, bentornati a Focus Economia in diretta dal Business Forum di Milano, dallo stand della DNV. Vi ricordo come sono andati i mercati oggi, che hanno ceduto molto anche sulla scorta di Wall Street, che in questo momento lascia sul terreno un punto percentuale. A Milano il FTSE MIB ha perso lo 0,53% e così ha fatto il FTSE All-Share, male hanno fatto anche le altre piazze finanziarie, con l'euro che quota 1,3782 contro dollaro. Veniamo al primo tema di questa seconda parte, ossia il risparmio degli italiani. Perché è stata presentata l'indagine 2010 sugli italiani e il risparmio, è stata realizzata da Acri e Ipsos, perché domani, come già si diceva in apertura, si svolgerà la giornata mondiale del risparmio. Alcuni dettagli. La tendenza degli italiani resta quella, insomma, se la vulgata vuole che siamo un popolo di risparmiatori, ebbene, lo rimaniamo, e però naturalmente la crisi si fa sentire. Quindi si riesce a risparmiare un pochino meno, la quota di chi riesce a mettere soldi da parte resta comunque costante rispetto agli ultimi anni, si attesta però al 36%, sono il 37% quelli che consumano tutto ciò che guadagnano, e ben una famiglia su quattro deve ricorrere a debiti o al decumulo di risparmio pregresso, così viene definito, insomma, banalmente spendere i propri soldi, i soldi che si hanno in banca. Sempre più famiglie italiane preferiscono mantenere la liquidità, ma se devono investire preferiscono il mattone. Anche qua siamo sul classico. Ancora, gli elementi principali che emergono da questa indagine, dal presidente di Ipsos, la società che l'ha realizzata, Nando Pagnoncelli, intervistato da Vincenzo Miglietta. Sicuramente c'è stata un'inversione molto forte del clima sociale tra il 2009 e il 2010. Mentre il 2009 era improntato a un ottimismo che molti hanno giudicato sorprendente proprio perché era in concomitanza con l'esplosione della crisi, ma era un ottimismo giustificato da due macro fattori: da un lato aspetti, se vogliamo, psicologici, l'interiorizzazione della crisi, da anni diciamo di essere in crisi, poi arriva la crisi violenta e ci fa meno paura, siamo un po' vaccinati. Altro aspetto psicologico, la relativizzazione della crisi, cioè il fatto che noi abbiamo ritenuto nel 2009 di essere messi molto meglio rispetto ad altri paesi. C'erano però anche stili di consumo che hanno determinato un adattamento alla crisi. Gli italiani in questo sono stati molto bravi, hanno saputo sfruttare anche le occasioni determinate da un'inflazione molto bassa e così via. Tutto ciò ha determinato un compiacimento di potercela fare. Nel 2010 la situazione cambia drammaticamente. Il tema occupazionale ai vertici delle preoccupazioni degli italiani. Quasi una famiglia su quattro, abbiamo visto, è in contatto diretto con persone nella propria stretta cerchia che hanno avuto problemi di tipo occupazionale. Ecco, in una situazione di questo tipo è chiaro che gli italiani tendano a confermare l'importanza che attribuiscono al risparmio, che è un elemento culturale, possiamo dire, degli italiani. Un terzo, un poco più, 36% è riuscito a risparmiare negli ultimi 12 mesi, ed è interessante osservare che anche coloro che hanno avuto un peggioramento del loro tenore di vita qualcosa sono riusciti a mettere da parte. Dall'altro, appunto, questa conferma della propensione alla liquidità, soprattutto in previsione, diciamo, di un possibile peggioramento della crisi. Gli italiani pensano che l'uscita dalla crisi si stia spostando molto in là nel tempo rispetto alle previsioni iniziali. E ultimo elemento, in termini di investimento ideale si conferma l'idea che l'immobile, il mattone, sia l'investimento più sicuro. A livello geografico, qual è la zona del paese che regge meglio, che fronteggia meglio la crisi? In questo momento, dal punto di vista del clima sociale, quello che ci ha colpito nella relazione Acri di quest'anno è proprio la crescita forte che abbiamo riscontrato nelle regioni del nord-est, quindi Triveneto più Emilia, ma proprio perché erano le regioni che lo scorso anno, nel 2009, avevano avuto un calo molto più pronunciato, molto più forte in termini di ottimismo, di capacità di risparmio dichiarata e così via. il sud e le isole permangono due zone dove la situazione è estremamente critica, sia in termini di clima complessivo, sia in termini di capacità di risparmio. Come si pongono gli italiani rispetto allo sforzo del governo di ridurre e contenere la spesa pubblica? Ma qui è un approfondimento specifico di quest'anno che ci pare molto interessante, perché da un lato si conferma l'idea che il nostro sia un paese caratterizzato da scarsissima propensione al rischio, e questo è giudicato positivamente, però l'eccesso di parsimonia è considerato un elemento di freno allo sviluppo economico, perché determina una contrazione dei consumi e di domanda interna. Rispetto alla spesa pubblica, mentre c'è un consenso abbastanza evidente per una razionalizzazione delle spese, un taglio degli sprechi per intenderci, dall'altro però si percepisce un risultato che va in una direzione di una riduzione dei servizi, e questo è un momento in cui sostanzialmente la domanda di servizi sta aumentando, perché è una domanda di protezione sociale, di garanzie e di tutele. Non è un caso che, per esempio, nelle priorità che gli italiani danno rispetto al tema fiscale c'è nettamente, col 48%, la lotta all'evasione fiscale e soltanto al 23% la riduzione delle tasse. Da un lato perché evidentemente vivono come stridente il contrasto tra cittadini virtuosi e chi in realtà evade il fisco, dall'altro perché l'idea di ridurre le tasse è, nella percezione dei cittadini, collegata al rischio di una riduzione dei servizi, proprio in un momento in cui la crisi determina un aumento invece di sostegni e di garanzie, soprattutto per chi è più in difficoltà. E la preoccupazione maggiore mi sembra per la sanità. La preoccupazione è per il taglio nella sanità, però al secondo posto viene la scuola, l'università e la ricerca, cioè gli italiani non rinunciano a pensare al futuro, anzi pensano che sia quella la chiave per uscire dalla situazione attuale. Prendiamo una pausa, diamo la linea alla viabilità, alle informazioni sul traffico, poi sentiremo altre due voci sul tema appunto del risparmio, anche una richiesta di attenzione sul fronte della spesa pubblica al governo. Dopodiché affronteremo un altro tema di giornata, che è la questione della Torino-Lione. Come si diceva in apertura di trasmissione, insomma, l'Europa ha già deciso di toglierci qualche quattrino che sarebbe servito per la Torino-Lione. La viabilità. Dunque, abbiamo sentito poco fa anche Nando Pagnoncelli parlare di una certa necessità da parte degli italiani affinché si intervenga sulla spesa pubblica. Anche il presidente dell'ACRI, Giuseppe Guzzetti, insomma, sostiene che il governo su questo fronte deve essere più rigoroso. Anche su questo aspetto dei tagli e dei bisogni, l'indagine molto fornisce degli elementi che noi verifichiamo nella nostra attività, che poi sono elementi di riflessione anche, diciamo, per le autorità pubbliche. Quando noi continuiamo a dire che non si può andare avanti con una sorta di alibi o di scarico di responsabilità, vabbè, questo bisogno qui ci pensa il volontariato. Ma come ci pensa il volontariato? Il volontariato non ci pensa le fondazioni, quindi la parte pubblica la sua parte la deve fare. Semmai deve essere più rigoroso sulla spesa, deve essere su, no, forse meno convegnistica inutile, meno, come dire, maxi consulenze o inflazione di consulenze, meno, come dire, maxi uffici pubbliche relazioni, uffici stampa e dintorni. Insomma, io credo che lì, consulente e quant'altro, da quello che vediamo ci sarebbe da risparmiare tanto, allora si potrebbero destinare risorse che oggi invece penalizzano queste fasce sociali a cui ho fatto cenno prima. E poi sul tema della riforma fiscale, sempre Giuseppe Guzzetti. Siamo nella crisi, il problema è di uscirne. Questa por mano alla riforma fiscale con obiettivi di maggiore equità, di lotta all'evasione e di un impiego delle risorse pubbliche meglio mirate all'università, alla ricerca. A me pare che legare la riforma fiscale allo sviluppo e utilizzare la riforma con questi obiettivi, lotta all'evasione, più equità, più rigore nella spesa pubblica, e quindi la riforma fiscale con un elemento di rilancio, di sviluppo, mi pare molto interessante. il sistema delle fondazioni delle casse sono pronte a fare la loro parte. Queste le voci sulla giornata mondiale del risparmio che si celebrerà domani. Veniamo dunque al nuovo argomento. E parliamo della famosa Torino-Lione. Riassumiamo un attimo di che cosa si tratta. Si tratta della tratta ad alta velocità ferroviaria, parte del corridoio 5, lunga 254 km, di cui 51 di galleria tra Francia ed Italia. Anche questi 51 chilometri di galleria quelli che hanno creato molte proteste. Qual è il punto? Il punto è che i lavori dovrebbero concludersi nel 2020. Da qui al 2013 Francia e Italia si sono impegnati a stanziare 2,1 miliardi di euro con una richiesta di finanziamento all'Unione Europea di 725 milioni, di cui 494 a favore dell'Italia. Buonasera ad Adriana Cerretelli, inviata a Bruxelles del Sole 24 Ore. Buonasera. Allora, Adriana Cerretelli è decisamente la persona giusta per parlare di questo, perché è la persona che ha anticipato appunto sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi la notizia che la Commissione Europea avrebbe tagliato circa 10 milioni di euro di finanziamenti tra quelli previsti appunto per la linea ad alta velocità Torino-Lione. Oggi è arrivata all'ufficialità, il taglio è di 9,8 milioni di euro. Allora Adriana, la questione è una questione di ritardi essenzialmente. Sì, la questione sta in questi termini. Complice la crisi economica, tutti i paesi sono in ritardo rispetto alle tabelle di marcia dei rispettivi progetti. La Commissione per questo ha deciso di dare una proroga di 2 anni ai finanziamenti, cioè avrebbero dovuto scadere nel 2013, saranno prolungati fino al 2015. Ma i ritardi della Torino-Lione, per quello che riguarda la parte italiana, vanno oltre la proroga del 2015 per circa 40 milioni. Allora Bruxelles ha deciso che quando i ritardi vanno oltre la proroga che verrà concessa, la cifra che è stanziata per il paese verrà in qualche modo falcidiata e redistribuita ai progetti, diciamo, più virtuosi, quelli più efficienti. Quindi nessun progetto viene cancellato, però diciamo i meno efficienti vengono in qualche modo tenuti sulla corda. Penalizzati. Ma nel caso della Torino-Lione il peggio potrebbe ancora venire, sì, perché la proroga viene condizionata e in particolare la Commissione europea fissa 3 condizioni. Una è quella del rinnovo del trattato bilaterale Francia-Italia. E l'altra attiene proprio ai lavori sul campo, in particolare all'avvio dei lavori del tunnel della Maddalena in Val di Susa. Questo tunnel deve, secondo la Commissione, per poter ottenere la proroga, avviare i propri lavori entro il marzo dell'anno prossimo. Qualora questo non accadesse, i finanziamenti alla Torino-Lione, in questo caso per la parte italiana, verrebbero falcidiati, ma ben oltre i 9 e passa milioni. Di che cifre si parla? Ora con questo ritardo. Di che cifre si parla, Adriana? Non ho capito. Di che cifre si parla? Di che taglio si parla nel caso appunto quella scadenza? Non le vogliono rivelare, perché loro dicono: noi continuiamo a sperare che insomma in qualche modo l'Italia sblocchi la situazione. Quindi loro fanno pendere un po' questa minaccia, però quando dicono che è molto di più, mi immagino che saranno almeno 3 volte tanto, così a buon senso. Ok, che già iniziano ad essere cifre ragguardevoli, insomma, a quel punto, perché comunque sono 30 milioni di euro. Certo, voglio dire, parliamo di un'opera di dimensioni notevoli, ancor più ampie, certo. Però insomma 30 milioni di euro inizia a essere già una cifra ragguardevole. Ti chiedo, Adriana, scusate se lo diciamo proprio così, ma conoscendo il paese, in caso di ulteriori ritardi, che cosa rischia? Rischia il taglio totale dei fondi l'Italia? No, io penso che sia molto peggio di così. Rischia che prima o poi questo corridoio 5 si farà al di là delle Alpi. Cioè rischia, secondo me, una fine tragica per il futuro sviluppo del paese, nel senso che il corridoio 5, il mercato italiano, interessa all'Europa, però ci sono delle tabelle di marcia, già queste tabelle sono in ritardo e c'è una certa fretta, proprio perché c'è bisogno di rilanciare l'economia a tutti i livelli in Europa, c'è bisogno anche delle infrastrutture di trasporto e quindi non si possono accumulare troppi ritardi, perché troppi ritardi in questo caso vogliono dire punire il potenziale di crescita economica, punire la capacità dell'Italia di commerciare più agevolmente, più rapidamente con il resto dell'Europa. Quindi insomma è un po' una questione di autolesionismo da parte nostra, però certamente in questa Europa, lo si vede tutti i giorni, i partner non sono certo più disposti ad essere solidali più di tanto, cioè se uno cresce e segue il convoglio bene, altrimenti lo scaricano. Insomma, naturalmente, ecco, naturalmente. Un po' l'Europa di questi anni. Io per dovere di cronaca leggo due messaggi di segno opposto, uno ci arriva da un'ascoltatrice che fa parte del cosiddetto popolo Notava, Anna ci dice bene per il taglio così non si fa quest'opera inutile, e l'altra da Marco che ci dice bene l'Europa, chi non è efficiente non va pagato, chiederemo i danni ai residenti della Val di Susa. Chiudo e ti chiedo di essere brevissima, Adriana, col fatto che in realtà oggi c'è stato anche un altro taglio, quello che riguarda la linea di accesso da sud al Brennero, no? Sì, sì, non è, diciamo, il tunnel del Brennero, con il tunnel l'Italia è in regola, mentre non è in regola per appunto l'accesso al tunnel dalla nostra parte, e per questo sono saltati 12 miliardi sarebbe stato insomma un taglio un po' tantino. Bene, grazie Adriana Ceretelli, inviata del Sole 24 Ore a Bruxelles, buonasera. E chiudiamo così questa puntata di Focus Economia. Un grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, per la parte tecnica a Valeria Bernardi e Davide Ciocia, in diretta qua dal World Business Forum alla Fiera di Milano. Un grazie per l'ascolto a tutti voi da Simone Spezia, una buona serata, ci risentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.